ragioniamo in questo modo, amici cari, la gioia di essere nati non ci abbandonerà mai. La riconoscenza verso coloro che ci hanno fatto il passo a mano della vita, babbo e mamma, non ci abbandonerà mai. Magari una fetta di pane qualsiasi, una fetta di polenta qualsiasi, un tugurio, un sottoscala, ma la vita, viva la vita, diceva un parrocchiano di Mazzurega al quale ho assicurato l'arrivo alla casa del padre, ma avevano chiamato perché morente. E quando ebbi data la soluzione sulla sua coscienza, mi disse: viva la vita, Dio dei Dii, viva la vita! E fu l'ultima parola che io udii da quelle labbra. Viva la vita, oh Dio dei Dii! Quando siamo convinti che Dio ci ama tanto, ci stima tanto, da dare prontamente il suo figlio alla morte di croce la più terribile, perché noi da quel sangue trovassimo coraggio di sperare, sperare sempre, contro ogni speranza, sicuri del perdono, sicuri della riabilitazione, sicuri della risurrezione, sicuri che da quel sangue saremmo usciti innocenti come dalle acque del battesimo. Gioia senza fine alla tua presenza, Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, tutto uomo e tutto Dio, perché io, restando uomo, possa sentirmi posseduto da Dio, vivificato del suo stesso spirito, in possesso della sua stessa gioia. Com'è bello, gioia senza fine, sapendo quanto Dio ci ha amato. E prima di dare il via alla nostra esistenza, egli già davanti ai suoi occhi e al suo cuore aveva tutta la panoramica della nostra condotta, non sempre lucida, non sempre trasparente, non sempre pura, talvolta ambigua e perversa. Ha voluto il passamano lo stesso, perché l'amore di Dio è invincibile. Per quanto noi siamo stati cattivi, ecco il nostro prezzo. Per quanto Baramba sia stato cattivo, sentirà che lui andrà a morire in sua vece. E per quanto il ladrone sia stato coinvolto nei delitti, sia davvero un ladro, saprà che lui ha pagato e paga il prezzo più alto. Solo il mistero di Dio spiega il nostro mistero. Solo un amore infinitamente misterioso e grande può spiegare la misericordia e il perdono che Dio ci ha dato. Mille volte, come fosse la prima e l'unica volta. Gioia senza fine. Imparate a baciarlo così, il crocifisso, come espressione di una gioia misteriosa. Guardando lui scopro quanto valgo io. Vedendo quel sangue capisco quanto vale il mio sangue. Scoprendo quel Dio capisco quanto valgo io. Piccola creatura per la quale il Creatore impazzisce. Dio impazzito d'amore per noi, così poco galantuomini, che tanto promettiamo e altrettanto veniamo meno alle promesse. Signore, con che coraggio ci hai voluto bene, quasi valessimo noi più di te. Muori tu per noi, quasi Barabba ti fosse più caro che la tua stessa vita, come se il ladrone ti fosse caro più del tuo stesso sangue. Contemplatelo così, il crocifisso, e auguriamoci che sul letto di morte una mano pietosa ci presenti, ci metta sulle labbra il crocifisso per l'ultimo bacio. Grazie, oh Dio, tu solo puoi spiegare il mio dolore. Quante traversie nella vita, quante cose, quante peripezie, quante vicende, vi spiega tutto lui. Signore, io stesso a volte ho una confusione in testa, non mi capisco. Guardalo e ti farà capire lui chi sei, quanto vali e quanto gli sei caro. E la tua vita gli è cara. Oh davvero, benedetto il Dio che ci ha raccolti qui, alla sua presenza, gioia senza fine.